Salve a tutti, sono Stefania, sono qui con Radio Big World, il programma è Il Popolo di Barabba. Oggi volevo confrontarmi con voi su una questione che mi preme moltissimo e che con l'educazione ha molto a che vedere: la comunicazione attraverso i social, la comunicazione dei giornali, dei talk, la comunicazione degli adulti con i giovani, la comunicazione tra giovani. Stavo riflettendo, questa comunque è la mia esperienza, che oggi la società in cui viviamo c'è una grande confusione inerente alla comunicazione. Siamo tempestati di notizie dove tutti vogliono raccontare tutto. E questo mi spaventa moltissimo, perché il tutto è come il niente. È come se questa comunicazione arrivasse a chi la riceve come una valanga, uno tsunami, e alla fine di questo non si è capito niente, quindi non abbiamo comunicato niente. La comunicazione è una cosa importante e chi la fa nello specifico dovrebbe essere consapevole della responsabilità che ha nel comunicare. E mi sembra anche, stando così ai fatti, analizzando un po' quello che succede giorno giorno, che non siamo tanto preparati, anzi non siamo preparati per niente a ricevere questa valanga di informazioni, perché non siamo capaci di scindere, e questa è sempre la mia opinione e la mia esperienza, di scindere quello che effettivamente è notizia da quello che invece è la notizia ricamata di opinioni che possono essere anche non vere. La notizia è notizia, non può essere circondata poi da orpelli che cercano, più che dare l'informazione, di fare degli scoop, perché nella grande confusione e nella grande quantità di nozioni e di notizie e di informazioni si sovrappongono chi vuole dare l'informazione più interessante e più importante. Quindi secondo me si arriva anche ad una pornografia, consentitemi il termine, dell'informazione, usando anche delle volgarità che non hanno niente a che vedere con il modo di informare, con la maniera di informare. Il titolo più accattivante oggi è quello dove all'interno c'è la parolaccia, è quello più letto, è quello che fa più audience, è quello che tutti vanno a cliccare o a ricercare per leggere, perché è quello più simpatico. Ma l'informazione e la comunicazione non è questo, e purtroppo oggi divagante è questo atteggiamento. Ci sono persone che sono capaci di scegliere, quantomeno di dire no, questo non lo leggo, non mi interessa, oppure questo lo leggo e poi do la mia opinione, ma insomma non credo che sia una notizia interessante e soprattutto veritiera, perché magari si informa in altri posti. Ma ci sono molte persone, come soprattutto anche i giovani, che non fanno questa ricerca e quindi spesso prendono per buono notizie così date estemporaneamente. Questo secondo me è gravissimo, anche perché nella comunicazione quello che secondo me è importante, oltre alla serietà dei giornali e delle televisioni che la fanno, anche la comunicazione tra persone, tra adulti e adolescenti, nella comunicazione ci sta la relazione, e questo purtroppo oggi ci viene un po' a mancare. Vi faccio un esempio molto, molto semplice. Nel mio paese anni fa c'era un ragazzo, soprattutto uno, che aveva appena preso la patente e quindi con la macchina per le stradine del paese faceva il diavolo a quattro. Tutte le persone lì del vicinato, impressionate da questo ragazzo che con la sua macchina faceva il diavolo a quattro, si recano in comune dicendo che il comune avrebbe dovuto mettere dei dissuadori lì nella strada. I famosi, mio nipote li chiama, si può dire una parolaccia? Li chiama i batticulo. Ecco quelli, ecco. Ecco, a me mi è venuta una riflessione da fare. Questo era un ragazzo appena diciottenne, e tutte quelle persone del vicinato, adulti, mamme e babbi, non sono stati capaci di avvicinare questo ragazzo e fargli capire che con il suo atteggiamento avrebbe potuto provocare dei danni ad altri. C'erano bambini che giocavano, dei danni molto seri. Siamo corsi subito in comune a far mettere dei dissuadori e non c'è stata relazione con questo ragazzo. Non c'è stata la comunicazione dovuta, non abbiamo tentato, ci siamo tolti questa responsabilità di educare anche le persone che ci stanno vicini, agganciandoci a questi rimedi che poi insomma lasciano il tempo che trovano, perché il ragazzo ovviamente ha continuato a fare le sue scorribande, anzi con i dissuadori era ancora più stimolato perché la macchina faceva tipo stuntman, insomma, ecco, e quindi si divertiva ancora di più. Questo esempio, proprio per farvi capire meglio quello che volevo dirvi, quello che volevo comunicare stamani mattina, che non si può scherzare su questo, perché la comunicazione ha delle ripercussioni sul sociale, sulla società, non indifferenti, molto molto serie. Quindi quando affrontiamo questi argomenti cerchiamo di affrontarli nella maniera più giusta, dando gli strumenti di conoscenza e di consapevolezza soprattutto alle persone più fragili, e io mi riferisco e mi rivolgo sempre ai nostri bambini, ai nostri giovani. Grazie.